in parte le risposte che Moro diede alle Brigate Rosse nel cosiddetto processo rivoluzionario che gli veniva intentato nella Prigione del Popolo, in parte sono considerazioni autonome che lui stende su carta quando inizia a rendersi conto che probabilmente non uscirà più vivo da quella prigione. Sono una specie di grande riflessione personale, pubblica, privata, sulla storia italiana dal dopoguerra al 1978. Ecco, queste sono le carte di Moro a cui io ogni sera in città diverse do un po' come un medium, durante una seduta spiritica cerco di ridare corpo, proprio come se tornasse uno spettro dal passato a parlarci di queste carte dimenticate. Ci eravamo sentiti 2 anni fa, proprio per questo progetto. Nel frattempo ha cambiato forma? Naturalmente gli spettacoli sono sempre organismi mobili e in evoluzione, e quindi al netto del fatto che cambia tutte le sere da città a città e a seconda del campo magnetico che si crea ogni sera con gli spettatori, ci sono state sì delle piccole limature di drammaturgia. C'è un prologo a braccio che io faccio ogni sera e che ho fatto sin dalla prima replica, che cambia anche molto a seconda del tempo e che in questi giorni naturalmente risente anche di tutto quello che sta accadendo intorno a noi, insomma, in questo momento in Europa, anche perché questa storia è una storia che si inscrive totalmente, che non è possibile leggere non tenendo conto del periodo storico in cui avveniva, cioè in piena guerra fredda, quindi in un clima di contrapposizione, di scontro frontale fra i due blocchi, quello del patto di Varsavia e del patto atlantico, di cui in qualche modo Moro e Berlinguer erano garanti per quanto riguarda l'Italia, essendo i rappresentanti dei due grandi partiti di massa, cioè della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista. E in questo momento tutto quello che accade forse ci fa apparire, questo che io definisco meteorite, un corpo ancora più vicino di quanto non potessimo immaginare. L'impressione è che questo tuo confermarti su un periodo e un contesto ne faccia un paradigma che supera il suo recinto spazio-tempo, assume una universalità. Sì, questo senz'altro, nel senso che la vicenda contenuta nelle carte di Moro è una vicenda da un certo punto di vista senza tempo e assoluta, tant'è vero che la potenza linguistica e tragica di quello che contengono queste carte ce le fa assomigliare e ce le fa avvicinare in alcuni momenti in maniera davvero impressionante a una grande tragedia shakespeariana. Ci sono alcuni passaggi dell'ultima parte del Memoriale in particolare che sembrano prefigurare uno scontro tra Amleto e Riccardo III, dove Amleto naturalmente è Aldo Moro. Uno dei nomignoli che gli avevano affibbiato era l'Amleto di Maglie, il paese dove è nato, in Salento, e su Riccardo III forse non c'è bisogno di soffermarsi. E questo proprio perché quando il materiale, come dici tu, buca, deborda dai perimetri del recinto storico, per la propria forza diventa un assoluto, è un grande ragionamento in presa diretta su un essere umano, innanzitutto, perché di quello si parla, tradito, disperato, che potrebbe morire da un giorno all'altro e che subisce un tradimento terribile da parte dei suoi ex amici. Si trova al centro di una specie di tempesta perfetta e in questa condizione mette in campo un po' tutto l'arcobaleno delle pulsioni umane che può abitare in un essere umano, dalla dolcezza alla mitezza contenuta nelle lettere struggenti ai suoi familiari, ai suoi amici, agli impulsi più rabbiosi, più violenti, che è forse la parte di Moro che conosciamo meno, perché siamo sempre stati abituati a cristallizzare questa figura, come tante altre figure della storia, un pochino in uno scaffale, no? Quindi Moro corrisponde alla figura dell'uomo pacato, ragionatore, mite, e quindi è molto sorprendente per il pubblico che condivide questo esperimento con me la sera scoprire che invece c'è un uomo che a 360 gradi mette in campo di tutto. E poi è un grande apologo, anche questo senza tempo, sul potere e su cosa significa essere un uomo di Stato nel senso più alto del termine, cosa comprende, dove i confini anche lì tra il bene e il male cedono il passo a qualsiasi tipo di semplificazione. Da questo punto di vista dico che poi mi è capitato di dire spesso che il fantasma di Moro e il fantasma di Pasolini, di cui inizieranno le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita, sono due spettri che occupano il palcoscenico della nostra storia di ombre, perché gli spettri sono corpi a cui non è stata data una degna sepoltura, e quando i corpi rimangono insepolti sono corpi su cui inciampiamo continuamente. La cultura italiana, la politica italiana, la società italiana inciampa continuamente su questi corpi e quindi cita continuamente, tenta di appropriarsi di brani di Pasolini, tenta di mettere le mani su alcune zone escludendone altre, e così con Moro. E però questo tentativo di appropriarsi di una parte dei loro corpi è sempre fallimentare, perché sono corpi non pacificati, sono corpi inquieti e in perenne movimento. Questo tuo studio insistito ti ha portato anche a nuove consapevolezze? Ma sai, lo studio insistito tra l'altro passa attraverso 5 mesi di riprese con Bellocchio, sempre nei panni di Moro, e quindi dal punto di vista proprio anche semplicemente dello stare nei panni di, non c'è dubbio che c'è stata una maturazione progressiva, non so di che tipo, però sicuramente qualcosa è cambiato proprio nel modo di sentire quelle parole, di restituirle. Poi sono testi che hanno tantissime linee di lettura, anche cifrate, perché Moro scriveva anche per fare intendere a, e quindi man mano scopri tante cose nuove, insomma, no? Quindi sicuramente sì, quello aumenta sera per sera, ma anche semplicemente non scoprendole nel senso come studio, come analisi, ma anche semplicemente proprio rimettendosele addosso, quelle parole ogni volta aggiungono un aspetto, un colore a cui non avevi pensato la sera prima, no? Quindi per me sì, da questo punto di vista lo spettacolo è molto più pieno, sono molto più abitato da questa cosa qui adesso. Lo spettacolo Con il vostro irridente silenzio a Roma, al Teatro Vascello, dall'8 al 13 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento a Fabrizio Gifuni che lo porta in scena. Grazie a voi, vi aspetto. Ciao. Con Eleonora Guzmano, regista e interprete della compagnia Focus 2, per presentare lo spettacolo Apparatus Matri, di scrittura della casa di Bernarda Alba, di Federico García Lorca, a Roma, Spazio Rossellini, dall'11 al 13 marzo 2022. Ben trovata! Grazie mille. Di cosa si parla? Di donne, è una chiave un po' diversa rispetto a quella che ci ha proposto Federico García Lorca, nel senso che è la storia di una famiglia matriarcale all'interno di una casa in cui vivono solo donne, una madre con le proprie figlie, e sia la pièce di Federico García Lorca sia la nostra si apre con il funerale per la morte del marito di questa donna, Bernarda Alba. E in Federico García Lorca la morte di quest'uomo coincideva con l'esclusione degli uomini dalla casa per mantenere intatta la benevolenza, o comunque il fatto che le figlie fossero ben viste in un mondo estremamente cattolico. Noi abbiamo immaginato la stessa cosa ai tempi di oggi, quindi 100 anni dopo più o meno, e la motivazione per cui gli uomini non vengono più permessi come ospiti in questa grande casa occupata da queste donne è perché si immagina un mondo dove gli uomini non sono più necessari, quindi un'estremizzazione, diciamo, del femminismo, provare a andare a ricoprire anche quei ruoli che sono degli uomini da parte delle donne, immaginarci quindi una società completamente femminile. È ovviamente uno simbolo, un tentativo di portare oltre quelle che sono le nostre battaglie che tutti oggi ancora facciamo per la parità dei diritti, proprio per analizzare quelle che sono le contraddizioni e le relazioni tra gli anelli individuali delle donne di affermarsi e di trovare una propria libertà e individualità e quello che ancora invece ci impone la società, ma anche ci impone a volte la collettività femminile, proprio per identificarci con quello che vuole essere un nuovo modo di proporsi donne oggi nel 2022. Quindi è un'indagine femminile sulle figlie delle femministe, come ci sentiamo noi oggi. Come era nato tutto? dalla volontà di capirci, cioè di andare a creare anche attraverso appunto un grande testo dove le relazioni femminili sono al centro dello studio di Garcia Lorca, andare a studiare quello che è il nostro sentire oggi. Diciamo che la compagnia Focus 2, che è la compagnia mia e di Ania, è nata nel 2014 e si occupa di studiare le relazioni tra donne, soprattutto le relazioni di potere, proprio perché teatralmente siamo abituati a analizzare il potere anche spesso, anche in letteratura, spesso da un punto di vista ovviamente maschile. A noi invece interessava provare a individuare quelle che sono relazioni di potere tra donne, oltre gli stereotipi appunto della moglie, della fidanzata, eccetera eccetera. E quindi queste cose si sono sposate molto bene in quest'idea di studiare Bernarda Alba oggi, quindi non più in un mondo che ci impone un'identità, in un mondo appunto più cattolico in cui la donna appunto è moglie o è madre di famiglia, ma in un contesto dove noi stiamo cercando di riscrivere la nostra storia. E questo ci mette di fronte proprio quotidianamente anche a continui conflitti anche interiori, appunto, già solo voglio essere un artista ma divento mamma, come gestisco questa cosa, no? Detto in maniera molto semplice. Come avete immaginato la messa in scena? È nata quasi subito l'idea, perché proprio come ti dicevo tutto si svolge all'interno di questo palazzo Maya, che è una casa occupata dove vivono queste matreie, cioè adepte di Mater, che è la nostra Bernarda Alba, che sono sia le figlie sia altre donne che appunto hanno aderito a questa comunità femminista di sole donne appunto. Noi abbiamo immaginato di rendere questo grande palazzo rifacendoci all'iconografia della Madonna della Misericordia, che è una iconografia medievale, dove appunto abbiamo queste madonne su dei troni molto alti che con il loro mantello raccolgono tutta la comunità di riferimento della Madonna in questione, quindi i committenti, le persone che vengono appunto, i fedeli nella chiesa. Questa immagine quindi di un grande mantello che raccoglie e isola quasi coloro che fanno parte appunto della comunità ci è sembrata molto focalizzata, in quanto proprio va sia a raccogliere ma anche a occludere quasi la vista tra il dentro e il fuori, quello che accade dentro un contesto comunitario e il mondo che c'è fuori. Quindi abbiamo un grandissimo trono in scena di 2,5 metri con delle braccia che si muovono, che appunto aprono e chiudono questo ideale portone della casa e mettono in luce il dentro e il fuori, dove appunto si svolge la vicenda dei nostri personaggi, delle nostre matreie. Lo spettacolo, la visione registica è quella di un grande orologio a cui è una macchina infernale in cui i personaggi si muovono, entrano ed escono dalla scena e prendono parte a questo meccanismo quasi di degenerazione a partire appunto da un ideale, dalla volontà di portare a termine questa operazione Angelus, che è un'operazione che questo collettivo delle matraie sta organizzando, appunto una cosa sovversiva che li metterebbe in luce di fronte a tutta l'Italia e porterebbe quindi il loro combattimento a essere conosciuto da tutti, un riconoscimento nazionale durante l'organizzazione proprio di questo momento molto importante. È proprio lì che vengono in luce i conflitti e le fratture interiori dei personaggi all'interno di questo contesto molto complicato, che anche è appunto una comunità sovversiva. Ci lasci tutti i riferimenti web per i dettagli? Lo spettacolo sarà da venerdì a domenica appunto allo Spazio Rossellini, venerdì alle 20.30, sabato alle 19 e domenica alle 17.30. Potete trovare tutto sia sul sito dello Spazio Rossellini www.spaziorossellini.it, sulla nostra pagina Facebook Compagnia Focus 2 o su quella dello Spazio e anche su Instagram agli stessi indirizzi. Lo spettacolo della compagnia Focus 2, Apparatus Matri, riscrittura della casa di Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca, a Roma, allo Spazio Rossellini, dall'11 al 13 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento a Eleonora Guzmano, regista e interprete. A presto! Grazie mille, ciao ciao! La regista Valentina Moscuzza sullo spettacolo 7 minuti di Stefano Massini a Roma, Piccolo Teatro San Pio, dall'11 al 13 marzo 2022. Valentina, ben trovata. Ben trovato a te e ciao a tutti. Ci racconti di questo spettacolo? 7 minuti racconta la storia di 7 donne che fanno parte del consiglio di una fabbrica tessile che è composta da circa 200 operaie. E si trovano a dover scegliere se accettare o no una proposta fatta dai nuovi proprietari che hanno acquistato l'azienda. Dovranno decidere queste 7 donne per tutte e 200 le operaie, una cosa molto importante che non vi svelo, e tutto questo porterà a farle riflettere tutte insieme su cosa siamo disposti a rinunciare pur di lavorare. Sono sette donne con idee diverse, situazioni lavorative diverse, perché abbiamo operaie impiegate, hanno un vissuto diverso, un'età diversa, un'etnia diversa, e il pubblico attraverso questo spettacolo si ritrova a ragionare sui doveri, sui diritti, ma soprattutto sulle rinunce che ci troviamo ad affrontare ogni giorno sul posto di lavoro. Rispetto al testo di Stefano Massini, cosa hai apprezzato del suo lavoro? Ma guarda, sicuramente l'attualità, nel senso che purtroppo siamo in un periodo storico dove l'argomento è molto attuale, il testo non è ambientato ai giorni proprio presenti, un pochino più in là, ma purtroppo l'attualità è questa del lavoro. La cosa che mi ha colpito di più è la prima volta che l'ho letto, ho pensato: ok, rinunciare a così poco, che cosa ci costa? Invece poi dopo leggendolo ho fatto il viaggio che poi farà il pubblico, cioè mi sono messa a riflettere e ho detto: no, attenzione, non si può rinunciare anche solo a una cosa che sembra così poco per la dignità e il diritto che il lavoratore dovrebbe avere, tutti i diritti che i lavoratori dovrebbero avere. Quindi questa è stata la cosa che mi è piaciuta di più. Poi adoro lavorare con solo donne, quindi il fatto che siano le protagoniste tutte donne mi ha esaltato ancora di più. Ci sono state due trasposizioni importanti, uno spettacolo teatrale e un film al cinema. Ecco, in che rapporto ti sei messa rispetto a questi due esperimenti? Beh, io sono piccolissima rispetto ad Alessandro Gassman che l'ha portato al teatro e a Michele Placido che l'ha portato al cinema sicuramente. Diciamo che mi sono più tenuta sul testo teatrale che sulla trasposizione cinematografica. Sono stata fedelissima al testo teatrale. Quindi sicuramente quello, ovviamente nel cinema ci sono le storie delle protagoniste un pochino più approfondite, perché per renderlo più cinematografico hanno dovuto, diciamo, aggiungere altro, però ho lasciato molto all'immaginario come nel testo teatrale, ho preferito caratterizzare più visivamente che raccontando precisamente la storia di ognuna di loro. Un saluto e un ringraziamento alla regista Valentina Moscuzza. Grazie a voi. Un abbraccio, grazie, in bocca al lupo, siamo. E a presto. Viva il lupo, grazie. La regista Valentina Moscuzza sullo spettacolo Sette minuti di Stefano Massini a Roma, Piccolo Teatro San Pio, dall'11 al 13 marzo 2022. Con l'autrice e attrice Donatella May per presentare Scusi Dio ma c'ero prima io, sembra uno spettacolo ma è tutto vero, a Roma, al T, dall'11 al 13 marzo 2022. Ben trovata! Ben trovato a te, come va? Tutto bene, bene, tutto bene, sono curioso di questa tua nuova proposta, parlacene un po'. Immaginiamo che sia un monologo a sette voci. Nel senso che è come se fosse un monologo, ma sono vari racconti che entrano in questo monologo con attrici diverse. E in questi racconti c'è una costante che è un dialoghetto con Dio, molto divertente. Da dove viene lo spunto? Nasce dalle ceneri del Scompensati. Quello però era subito dopo il Covid, i lockdown, eccetera, eccetera. Da quello spettacolo lì, che erano appunto varie voci con una clown, è nato questo che però è un altro spettacolo. E adesso è evidente che trattasi di un monologo, è un'unica persona che parla, che poi è la mia voce in realtà, non fisicamente, è la mia voce narrativa, come scrittura, come stesura, ma chiaramente è interpretato da varie attrici. E c'è un attore maschio che fa Dio, e fa anche un altro personaggio, ma non lo posso dire. Com'è pensata la messa in scena? Io non uso mai scenografie, quindi non c'è scenografia. L'idea è che è il salotto di una casa con un accesso in un giardino e succedono delle cose anche in questo giardino, ma il giardino non si vede mai, si intuisce. È un po' come se fosse un'immaginazione, è come se si immaginassero questi personaggi che nascono tutti da una stessa testa, però prendono vita poi lì fisicamente.

sconvolti dalla guerra dichiarata dalla Russia contro di loro, o meglio dal presidente Putin. Ecco, noi in questo giorno penso che potremmo offrirci un momento di riflessione importante, perché le nostre madrine di quest'anno sono due filosofe molto importanti e conosciute, Adriana Cavarero e Rosy Braidotti. Non avevamo certo pensato a temi come questi in particolare quando le abbiamo invitate e loro hanno accettato il nostro invito, ma credo che domenica sarà interessante ascoltare la loro voce, che non potrà non soffermarsi anche su questi temi. Dunque l'appuntamento di domenica è più importante che noi pensiamo di avere proprio per la nostra manifestazione. Gli altri appuntamenti via streaming si susseguiranno marzo, aprile, maggio, gli ultimi mercoledì di questi tre mesi, e saranno dedicati ad ospitare i focus che la nostra direzione sceglie di proporre nel 2022. Il primo, il 30 marzo alle ore 18, si intitolerà Oltre Canone, ed è un focus che vuole lavorare sulle rivisitazioni e il superamento delle barriere tra i generi letterari, le invenzioni, le trame, le forme della scrittura letteraria come saggistica. L'altro sarà invece mercoledì 27 aprile alle ore 17 e si intitolerà Habitat, ripensarsi nella differenziazione e coesistenza. È un appuntamento che affronterà con molti esperti e studiosi il tema dell'agibilità degli spazi urbani, della vivibilità e degli habitat, così come delle tane. E questo è un periodo in cui questi temi sono davvero in prima linea nei nostri pensieri, ci riguardano molto da vicino. Il terzo focus è intitolato Decolonializzare le arti e lavorerà attraverso interviste, video, opere di artiste che lavorano alla decostruzione della colonialità in Italia, in Francia ed in altri luoghi. Ecco, questi sono i nostri focus, saranno, lo ripeto, via streaming facilmente seguibili sui nostri social. E poi andiamo verso giugno e dunque verso la fiera in presenza. In presenza il luogo e poi come si articoleranno questi tre giorni? Sono il 10, l'11 e il 12 di giugno. Sono tre giorni che noi abbiamo scelto di organizzare in presenza nel complesso dell'ex Bonpastore, nei locali non solo della Casa Internazionale delle Donne, ma anche del Centro Giovani del primo municipio, che ha accolto il nostro invito a collaborare per questa nostra edizione. Dunque avremo giardini a disposizione, uno spazio aperto, oltre che con degli spazi chiusi in cui verranno ospitate. Io penso saranno davvero tante le nostre presentazioni, perché noi abbiamo già oggi ben 70 editori che hanno aderito alla fiera. E su questo vorrei anche dire che noi ospiteremo le loro presentazioni, ma anche molti dei libri nel loro catalogo, perché sarà organizzato all'interno proprio del Centro Giovani del primo municipio dall'associazione Zalib uno spazio libri in cui i titoli verranno esposti e ovviamente anche messi in vendita. Come organizzeremo questi incontri? Beh, intanto, come dicevo, attraverso le presentazioni che sono degli editori, ce ne sono già in arrivo molte molto significative, andranno dal piano letterario a quello saggistico. I temi che vengono già, vedo, insomma, proposti sono davvero di grande attualità, sia dal punto di vista dell'internazionalità, diciamo così, di questo nostro mondo globale, così come invece di un approfondimento su temi specifici che riguardano in particolare alcuni aspetti legati alla teoria piuttosto che alla letteratura italiana. E devo dire che quest'anno abbiamo anche degli spunti di incontro che riguardano il teatro, così come la musica, e a quest'ultimo proposito posso già farvi sapere che una delle nostre presentazioni, quella che sarà proposta da Interno 4, proporrà Cantare le donne del folk, e avremo tra l'altro in quella serata anche come ospite davvero importante, insieme a Sara Modigliani, e anche Giovanna Marini. E gli editori sono molti, lo dicevo prima. Per rispondere alla tua domanda, mi piacerebbe che ne so, semmai ricordarne alcuni sono degli habitués della nostra fiera, come All Around, Alegre, E.O., Ensemble, Fandango, Lorma, Bonpiani, La Vita Felice, Luoghi Interiori, Nova Delphi. Altri arrivano quest'anno per la prima volta, sono editori davvero di grandissima qualità, a parte che non è tanto sul panorama, e che quest'anno hanno scelto comunque sia di essere anche con noi. Sono Il Ramo e la Foglia Edizioni, sono Maria Pacini Tassi, De Commari, MR Editori, la MERS, altre due edizioni, insomma, Interno Poesia, e davvero una bella panoramica per una grande vetrina.